Vangelo di Giovanni, capitolo 17. Queste cose disse Gesù, poi levati gli occhi al cielo disse: Padre, l'ora è venuta, glorifica il tuo figliuolo affinché il figliuolo glorifichi te, poiché gli hai data podestà sopra ogni carne onde egli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dato. E questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu m'hai data a fare. Ed ora, o Padre, glorificami tu presso te stesso della gloria che avevo presso di te avanti che il mondo fosse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu m'hai dati dal mondo, erano tui, e tu me li hai dati, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu m'hai date vengono da te, poiché le parole che tu m'hai date, io le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute, e hanno veramente conosciuto che io sono preceduto da te, e hanno creduto che tu m'hai mandato. Io prego per loro. Non prego per il mondo, ma per quelli che tu m'hai dato, perché sono tuoi. E tutte le cose mie sono tue, e le cose tue sono mie, ed io sono glorificato in loro. E io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, conservali nel tuo nome, essi che tu m'hai dati, affinché siano uno come noi. Mentre io ero con loro, io li conservavo nel tuo nome, quelli che tu m'hai dati, li ho anche custoditi, e niun di loro è perito, tranne il figliuolo di perdizione, affinché la scrittura fosse adempiuta. Ma ora io vengo a te, e dico queste cose nel mondo affinché abbiano compiuta in se stessi la mia allegrezza. Io ho dato loro la tua parola, e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo, come io non sono del mondo. Io non ti prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo, e per loro io santifico me stesso affinché anch'essi siano santificati in verità. Io non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno, che come tu, o Padre, sei in me ed io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu m'hai mandato, ed io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno, io in loro e tu in me, a ciò che siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu m'hai mandato e che li ami come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io siano meco anche quelli che tu m'hai dati, affinché vegano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non t'ha conosciuto, ma io t'ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu m'hai mandato, ed io ho fatto loro conoscere il tuo nome, e lo farò conoscere affinché l'amore del quale tu m'hai amato sia in loro, e io in loro.